Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City, manca davvero poco e anche in Italia sarà possibile viaggiare lungo tutta la rete autostradale in auto elettrica senza rischiare di rimanere a secco. È un passaggio fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica nel paese che ha anche un nome, EVA Plus, nome del progetto italo-austriaco cofinanziato dalla Commissione Europea che porterà appunto le colonnine di ricarica presso i distributori di benzina che si affacciano sulle autostrade italiane. Coordinatore del progetto è Enel, di cui abbiamo in linea Rafael Rinaldi, che è responsabile programmi finanziati europei e transnazionali, infrastrutture e reti global di Enel. Buonasera Rinaldi. Buonasera. Allora, senta, intanto velocemente quali sono i partner di questo progetto? Allora, i partner sono Verbund, che è la principale utility austriaca, insieme a quattro case automobilistiche di importanza mondiale, quali Renault, Nissan, BMW e Volkswagen. Allora, senta, quante colonnine di ricarica prevedete di installare e in che periodo, in che lasso di tempo? Allora, nei prossimi 3 anni circa installeremo 200 stazioni di ricarica, di cui 180 stazioni in Italia lungo la penisola. E le altre 20 evidentemente sono proprio in Austria. Quali saranno le caratteristiche tecniche di questi oggetti? Ecco, perché appunto dobbiamo anche fare un po' l'abitudine a una serie di aspetti che non conosciamo, a cui non siamo abituati quando facciamo il pieno di benzina. Certo, allora installeremo 200 stazioni di ricarica veloce multistandard, in grado di offrire tutti gli standard di ricarica veloce, ovvero CCS, Combo 2, CHAdeMO o corrente alternata, quindi da 50 kW in corrente continua a 43 kW in corrente alternata, e quindi offrire tutte queste tre in una sola stazione. Ok, quindi ci sono anche delle prese che sono proprio diverse, sono tre i formati quindi? Esatto, sono tre tipi di prese che permetteranno ogni colonnina di fornire due macchine in contemporaneo. Quanto tempo si impiega a fare un pieno, diciamo così, con una di queste colonnine? Allora, con le auto elettriche attuali stiamo parlando di circa 20 a 30 minuti massimo. Per auto che hanno un'autonomia si calcola intorno ai 150 km, giusto? Sì, dai 100 ai 150 km per le auto attuali. Quindi per queste auto servono una colonnina ogni 30-60 km circa, quindi una stazione di ricarica, un'area di servizio su due. Su due, ecco, questo più o meno sarà la copertura. Ogni due aree di servizio ce ne sarà una equipaggiata con una di queste stazioni di ricarica in grado di servire due autoveicoli. Che previsioni di utilizzo avete? Non ci aspettiamo un grande utilizzo di questa infrastruttura all'inizio, perché serve proprio queste infrastrutture per, diciamo, incentivare l'utilizzo delle auto elettriche su autostrade, però studieremo l'utilizzo di queste infrastrutture per pianificare il rollout successivo su scala più grande, con un'installazione massiva e capillare su tutta la rete autostradale. Ecco, che cosa studierete? Allora, saranno sperimentate soluzioni tecnologiche innovative e verranno analizzate le necessità dei clienti per individuare i migliori punti su cui installare le stazioni di ricarica e definire anche il modello di utilizzo di questa infrastruttura, quindi il modello di business in qualche modo. Anche quello di pagamento, appunto lo stile, le abitudini degli utenti di questi veicoli elettrici, quali sono, in modo da così disegnargli attorno alla prossima infrastruttura di ricarica. Altri progetti in questo ambito? Allora, Enel sta studiando già la futura generazione di colonnine di ricarica, quindi insieme a case automobilistiche si sta parlando di potenze dai 300 kW su, per prevedere di soddisfare i criteri di utilizzo delle future macchine, che avranno un'autonomia addirittura fino a 500 km. Quindi questo progetto è veramente il primo passo prima di realizzare un'infrastruttura su scala larga. Senta, abbiamo parlato di questi sistemi di ricarica veloce destinati al circuito autostradale. Pensa che alla fine prevarrà un sistema di ricarica veloce, quello lento, oppure ci sarà un mix di varie soluzioni? Ma ci sarà sicuramente un mix di soluzioni, anche perché non possiamo smantellare le vecchie infrastrutture, dobbiamo sfruttare le infrastrutture esistenti e sviluppare in parallelo le nuove infrastrutture. Abbiamo sperimentato anche soluzioni V2G, che sono il cosiddetto vehicle to grid, per permettere alle macchine di dare servizi alla rete. Alla rete, cioè il contrario, no? Ci sono dei momenti in cui magari ci sono un sacco di automobili elettriche connesse alla rete, c'è domanda di energia, si può prendere un po' di energia da lì, dalle automobili. Esattamente, auto elettriche in sosta possono essere considerate come delle giganti batterie che restano inutilizzate per gran parte della giornata, ed è un peccato visto che 100 auto elettriche potrebbero erogare più di un megawatt di potenza. Quindi assisteremo a questo miscuglio tra la rete di trasporto e la rete elettrica. Va bene, grazie Raffaele Rinaldi. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani, buona serata.